This is a zoo only for you. Minchia come mi piace questo programma che lo ascolto in macchina e al lavoro metto le cuffiette e minchia come mi piace lo ascolto tutti i giorni quanto è bello che mi piace oh, infame metti lo zoo. The zoo. Oh eccolo qua. Minchia come mi piace lo ascolto tutti i giorni lo zoo. Lo Zoo di 105.